51 anni fa esatti, a Roma, si inaugurava un evento straordinario. Era l'11 ottobre del 62, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Quel giorno, quella mattina, 2520 vescovi e cardinali, giunti da tutte le parti del mondo, tutti vestiti di bianco, attraversano in lenta processione Piazza San Pietro. Poi, dopo di loro, arriva il Papa sulla sedia gestatoria. Non tiene ferme le mani questo Papa, saluta e benedice la folla, poi anche lui sparisce dentro la basilica e fa il suo discorso in latino. Inizia a parlare alle 12:30, 40 minuti dopo la Chiesa si troverà ad avere fatto un balzo in avanti nella storia, perché è un discorso che annuncia la rivoluzione, contro la pigrizia delle condanne, contro i profeti di sventura, contro l'idea che vi sia un modo solo per difendere le verità cristiane. Questo Papa è Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, passato alla storia come il Papa buono. Fin da quando diede l'annuncio di voler fare un concilio, lui mise in chiaro che non avrebbe voluto un concilio come quelli del passato, fatto di anatemi e di condanne, ma un concilio pastorale, di aggiornamento. Le commissioni preparatorie, invece, prevedibilmente, cominciano a lavorare secondo l'antico modello. Sono gli uomini della curia romana, difensori della tradizione, sono pronti a dare battaglia ai tanti temi di aggiornamento. Ma quel giorno, anzi quella sera dell'11 ottobre, succede qualcosa di non previsto. Roma si riempie di centinaia di migliaia di fiaccole che marciano lentamente verso San Pietro. Dai tetti della città lo spettacolo è meraviglioso. Il Papa non aveva intenzione di uscire. È stato il suo segretario, Loris Capovilla, a suggerirgli di guardare alla finestra. Il Papa esce sul balcone. Immediatamente si riaccendono le telecamere della Mondovisione e lui parla. È il famosissimo discorso della luna. Tornando a casa troverete i vostri bambini. Date una carezza ai vostri bambini. Dite: questa è la carezza del Papa. Troverete una lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi. Poi dice altre cose meno conosciute, forse più importanti. La mia persona conta niente. È un fratello che parla a voi, divenuto padre per volontà di nostro Signore. Ma non tutti hanno apprezzato questo discorso così spontaneo. Il cardinal Siri, per esempio, presidente dei vescovi italiani, lo riterrà sconveniente per un sommo pontefice. Il concilio durerà 3 anni e produrrà 16 documenti. Nell'aula conciliare si fronteggeranno 2 correnti, 2 scuole teologiche diverse. La prima ritiene la Chiesa come una società perfetta, che ha facoltà e dovere di imporre la verità e di condannare gli errori del mondo. La seconda ritiene la Chiesa come parte del mondo, con il quale aprirsi ad un dialogo sincero. La prima ritiene la tradizione della Chiesa intoccabile. La seconda, al concilio, vuole parlare anche di tradizione. 8 mesi dopo il discorso alla Luna, questo Papa buono muore. Gli succede Giovan Battista Montini, uomo del dialogo, un progressista moderato. E siamo nel cuore degli anni 60. Il mondo accelera, accelera anche il concilio. Nelle ultime sessioni si dovranno discutere temi molto scottanti, come la libertà di coscienza, che significa libertà di religione, ripudiare certamente l'ateismo di Stato, ma cominciare ad ammettere anche l'idea di uno Stato laico. Ed è quello che alla fine dice la Dignitatis Humanae. E poi verrà approvata la Sacrosanctum Concilium, che con la riforma liturgica mette fine alla messa in latino. E poi la Nostra Aetate, che dice che anche nelle altre religioni vi sono semi di luce e di verità. Ed infine la Lumen Gentium, che dice che la Chiesa non è composta da sudditi, ma da membri, che non si riconosce nella gerarchia dei poteri, ma nella comunione. Vi sono altri temi che alla fine questo concilio non riuscirà a dibattere. Il celibato ecclesiastico, la riforma della curia romana, la collegialità tra papa e vescovi e l'utilizzo della pillola contraccettiva. Altri temi che non arriveranno nemmeno al tavolo delle proposte. Il ruolo delle donne, delle religiose nella Chiesa, la morale del corpo, della sessualità. Questo grande evento, il Concilio Ecumenico Vaticano II, si conclude con una cerimonia solenne l'8 dicembre 1965. E questo spettacolo è dedicato proprio a quei ragazzi che nel 1965 si sono ordinati sacerdoti. Sono quelli che hanno indossato una veste talare, nera, lunga, fin da quando erano ragazzini, e poi invece hanno indossato il clergyman, pantalone e camicia. Sono quelli che hanno imparato a celebrare la messa in latino e poi l'hanno celebrata in italiano. Sono quelli che sono usciti da un seminario prima del concilio e sono entrati nel mondo dopo il concilio. Ed è dedicato a Don Pietrantonio Bellina, pre Toni Belline, sacerdote friulano. Divisa, berretto e mantello nel seminario minore, veste talare, cappello, soprabito e cotta nel seminario maggiore, collari 2, camicie 6, mutande 6, maglie lana 2, calzoni paia 2, scarpe paia 2, calze nere paia 2, fazzoletti 12, guanciale 1, coperte 2, lenzuola 3, asciugamani 5. Tutti gli indumenti e i capi di corredo verranno contrassegnati con un numero, perché i seminaristi saranno un numero nel grande gregge delle pecore di Cristo. Regole dell'ubbidienza. La prima di tutte le regole è fare ogni cosa in giunta, sempre volentieri e mai per forza. In questo mondo esistono solo due persone infallibili: il Papa e chi ubbidisce. L'assistente è la voce del prefetto, il prefetto è la voce del vicerettore, il vicerettore è la voce del rettore, il rettore è la voce del vescovo, il vescovo è la voce del Papa, il Papa è la voce di Dio. Questa è la gerarchia nella fabbrica dei preti. Regolamento. È consentito usare solo la lingua italiana e chiamarsi per cognome. Ogni ragazzino ha il suo posto assegnato dal prefetto e non discutibile. I posti assegnati verranno cambiati ogni 2 o 3 mesi per evitare che tra i vicini di banco nasca una amicizia particolare. Regolamento. Nessuno potrà acquistare o possedere libri senza il permesso del rettore. È proibita la lettura di quotidiani e periodici. Locali immensi, soffitti altissimi, corridoi che non finiscono mai, file ovunque. File di banchi tutti uguali, file di letti tutti uguali, file di panche tutte uguali, file di finestre tutte uguali, file di tavoli nei refettori, file di lavandini nei bagni, file di ragazzini tutti uguali. Ore 5:45, sveglia. Tu autem domini miserere nobis! È la voce del prefetto che urla: Signore, abbi pietà di noi. Saltare fuori dal letto come le molle, andare al bagno, lavarsi, vestirsi e rifare il letto, occhi bassi e bocca chiusa. Nel seminario maggiore di Padova tutti dovevano spogliarsi e vestirsi stando sempre sotto alle coperte. A Bologna, per evitare il contatto con il proprio corpo, si usava un bastone di legno per infilare la camicia nei pantaloni. Al seminario minore di Thiene il cambio della biancheria intima avveniva al sabato. Il prefetto la faceva preparare sul letto, poi diceva: pronti? E spegneva la luce. La geografia del corpo prevede parti lecite e parti meno lecite. Quest'ultime dovevano essere lavate in gran fretta, pensando alla morte e all'inferno. In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra. Per evitare qualche fischio è ben più saggio rimanere nell'orchestra. Assaporare il gusto lieve di esistenze non esposte alla bufera. Recuperare una distanza tra l'ipotesi e l'esperienza vera. Di eroico e di geniale c'è nel diventare uguale al proprio sfondo. Ciò che di tragico e banale c'è nel credere soltanto in questo mondo. È la speranza un giorno di essere smentiti dall'esplodere di un bacio, è la paura di non essere capiti per un gesto esagerato. Io sono quello nella foto, vedi, il secondo da sinistra in piedi. Si vede appena, ti devi concentrare, sono dietro, vedi, dietro, e dietro voglio stare. Cosa faranno al mio funerale? Quando muore un prete lo metto con la testa verso l'altare? Quando muore un laico lo mettono coi piedi verso l'altare e mi metteranno di traverso. Nel 65 mi sono fatto prete e nel 72 e mi sono sposato. E per il diritto canonico e il sacerdozio è per sempre. Puoi essere dispensato da fare il prete, ma resti prete. E per questo noi altri preti sposati per la Chiesa siamo un'assurdità, un errore vivente. Io sono entrato in seminario che avevo 12 anni, sono andato da solo, con la valigia sulla testa, volevo tanto farmi prete perché avevo il carattere giusto, ero mite, servizievole. Anche in seminario sono sempre stato io, il più buono, il più devoto, il più obbediente, più macaco, beh. Fin quasi 20 anni io ho vissuto contento, felice, nella paura, che avevo paura di Dio. Mi confessavo anche 2 volte al giorno. La mia preghiera preferita era l'atto di dolore, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E cosa castighi? Il corpo, beh. Al seminario minore c'era uno che costruiva i cilici. Il cilicio è una cintura di corda con delle punte di ferro messe verso l'interno che se stringi forte le senti. E poi le donne. In seminario capisci che le donne sono solo una roba messa lì tra te e Dio, un ostacolo e basta. Ma io venivo da una famiglia tutta di femmine, 4 sorelle e una mamma. E un giorno sono venute a trovarmi tutte insieme e il vicerettore le ha viste. E il giorno dopo mi ha fermato e mi ha detto: ehi, mi ha detto, la prossima volta che ne venga una sola. Va bene, ho detto, tanto quando sei piccolo non è mica un problema, no? Le donne. E dopo? Che cambia la musica. Quando ero ragazzo, mia mamma mi portava delle uova fresche come ricostituente e le incartava coi fogli di giornale. E sui giornali che cosa c'è? Foto di donne. Donne normali, ma donne. Allora io salivo su in camera, scartavo le uova, stendevo questi fogli sul letto e andavo a confessarmi. A fianco al seminario vescovile avevano messo un convito femminile. Non era stata una bella idea. E infatti un giorno un mio compagno che era rimasto in camera perché era malato ha visto giù in cortile le ragazze. Io non so cos'è gli è preso all'improvviso. Ha aperto la finestra, si è messo a ridere e scherzare con queste ragazze e l'hanno cacciato subito. Aveva fraternizzato col nemico. Che poi quando uno lasciava così non c'erano mica tanti saluti addii, niente. Ti accorgevi la sera quando salivi su in camerata e vedevi che c'era un letto vuoto senza neanche il materasso. Però io devo essere onesto, io i miei anni di teologia sono stati anche belli. Forse perché a quel punto avevo rinunciato a diventare santo? O forse perché quando hai 20 anni, anche se sei chiuso dentro un seminario, c'hai una voglia di vivere che ti corre nelle vene, eh? Io mi ricordo un giorno, ero in camera di un mio amico e non facevamo mica niente di male, eravamo lì, sarà stata la domenica a ascoltare la radio, la partita, e poi avevamo sigarette e fumavamo e ci facevamo l'uovo al tegamino col fornelletto. All'improvviso apre la porta il rettore in persona. Ancora adesso che ho 75 anni, quando mi faccio l'uovo al tegame mi viene in mente la faccia del rettore, come se ci avesse scoperto nell'alcova del piacere. E per fortuna che quel mio amico era Nando, che lui buttava sempre tutto in ridere e non si preoccupava mai. Lui si è salvato perché era un ribelle. Lui era sempre allegro, per quello dava fastidio e faceva scherzi a tutti. Si dice scherzi da prete per dire che non fa ridere nessuno, ma noi ridevamo come matti. Una volta allora c'era una campana che suonava per dar la sveglia a tutti quanti. Una notte Nando ha preso la scala e è andato su, ha tolto il batacchio alla campana e al suo posto ci ha messo un salame. Sì, una volta l'ha combinata grossa. Avevamo un vecchio insegnante sessuofobo, ma pazzo, pazzo veramente. Allora lui, per fargli uno scherzo, gli ha messo in mezzo al libro di morale, in mezzo alle pagine, una foto della Lollobrigida in costume da bagno. A momenti resta secco. E io una volta ho portato dentro di nascosto 2 bottiglie di Vov. È stata la cosa più sovversiva della mia vita. Eccola qua, questa è la foto con tutti quelli che ci siamo ordinati il mio anno, nel 65. Eravamo in 24, tanti, eh? Ma è stato un anno balengo, perché 8 su 24 hanno fatto come me e hanno lasciato. Chissà. Forse perché il seminario ci ha buttato fuori nel mondo in pieno 68, noi che il mondo non l'avevamo visto neanche col binocolo, non eravamo preparati. E infatti questo qua, il primo, questo ha mangiato subito la foglia, appena si è fatto prete è andato in Africa e non è più tornato, e chissà che cosa ha fatto là. Questo qua invece, poverino, ha fatto una vita infelice, ha fatto il funzionario in curia. Era tanto affezionato alla sua mamma e quando lei è morta è andato fuori di testa. Questo qua invece, questo è un bel filibustiere. Questo qui ha fatto carriera nell'esercito come cappellano militare. È 30 anni che vive con una donna, dice che è la sua colf. Questo invece, questo è uno in gamba. Questo qui è un parroco di quelli veri. Sempre in mezzo alla gente, che tutti gli vogliono un bene. E anche questo qua eravamo tanto amici, anzi, a dire la verità, questo qua era il mio migliore amico. Eravamo sempre insieme, avevamo una devozione molto forte, tutti e due ci chiamavano le due Marie, ci chiamavano. Però lui, quando io ho lasciato, non ha più voluto parlarmi. L'ho rivisto da poco. È venuto lui ad abbracciarmi. Ci siamo commossi perché siamo vecchi. L'hanno messo in un istituto e gli ho detto: come stai lì? Mi ha detto: bene, è finita la mia vita di solitudine. E questo qua sono io. Ero anche un bel ragazzo a 25 anni, eh? E infatti, come mi mandano in una parrocchia, mi succede quello che succede a tanti preti giovani, no? Che una ragazzina, ma poco più di un adolescente, prende una cotta e cominciano a arrivarmi letterine, coi cuori, i fiorellini. Mamma mia, se ripenso a quegli anni. Abitavo in una grande casa con altri preti, eravamo serviti e riveriti. Io godevo della stima di tutti quanti solo per il fatto che ero un prete. E io cercavo di darmi da fare, di essere utile a tutti, ma della vita non sapevo un fico secco, perché io non volevo mica bene a nessuno, veramente. E avrei potuto andare avanti anche così in comodità, solo che poi era il 68 anche per noi preti, no? Un giorno a messa ho detto che le cerimonie per i caduti delle guerre sono un'ipocrisia, ho detto, prima li mandano a morire e poi gli fanno la festa. E ai ragazzi, una volta all'omelia dei ragazzi ho detto che la sessualità è comunicazione. È stato uno scandalo, uno scandalo. È stato in quegli anni che ho incontrato mia moglie. Mia moglie era una ragazza molto matura, molto attiva in parrocchia, Sì, e per me era come una delle mie sorelle, e con lei potevo parlare di tutto. E poi, che cosa è successo? E niente è successo. Ci siamo trovati da soli un giorno, io e lei, e non avevamo niente da dire. E ci siamo guardati negli occhi e io ho visto che lei mi vedeva. È stato uno shock. Non ho più smesso di pensarla. La notte piangevo. Sono stati 2 anni di tormento, una tortura che io non la auguro a nessuno, perché quando un prete si innamora, la sua vita va in pezzi. E dopo 2 anni ho preso la mia decisione, ho fatto come quella ragazzina là, ho scritto una letterina casta, infantile, gliel'ho data. E abbiamo cominciato a vederci di nascosto. Mi ricordo una volta che siamo finiti nella soffitta sopra la vecchia sacrestia dove tenevamo a riposo le statue dei santi. Un imbarazzo. E il primo bacio. Ah, mamma mia, eravamo nella sua 500. Eravamo in un grande incrocio pieno di semafori, tra un semaforo verde e uno rosso. Tutti pensano che ho lasciato la chiesa per mia moglie, ma non è mica vero. Il momento di non ritorno per me è stato un episodio preciso. Andavamo a far confessione in ospedale. Ognuno aveva questo stanzino, no? Per sé. Entra dentro questa giovane donna molto malata e subito si confessa di un peccato mortale che aveva commesso 8 anni prima. Una colpa pesantissima che lei si portava dentro nel segreto, che l'aveva schiacciata, che l'aveva anche fatta ammalare. Mi confessa tutto, nei dettagli. E poi scoppia a piangere come una bambina. È stato in quel momento lì, no? Ho fatto una cosa inaudita. Mi sono alzato e l'ho abbracciata. E poi le ho detto, signora, le ho detto, è lei che si deve perdonare. Lei? L'ho assolta? Non l'ho più vista. Ma ancora oggi io la penso e mi chiedo se lei è riuscita a perdonarsi. Io sì. Quando sono andato dal vescovo a dire che lasciavo, non ha voluto sapere niente delle mie motivazioni, niente. Mi ha detto solo, la mando via un anno così ci pensa su. Ho detto no, grazie, ci ho già pensato. Non l'ho più rivisto. Dal giorno all'altro mi sono trovato fuori da tutto il mio mondo, espulso come un appestato. Per la chiesa non ero più buono a fare niente, niente. Dovevo star distante. E a parte Nando, tutti quanti erano contro, tutti, anche le famiglie. E la dispensa non mi arrivava mai, la carta per sposarsi, e lo fanno apposta. Ti lasciano lì anni e anni aspettare, per punirti, per tenerti in sospeso. Ma il mio parroco era un uomo duro, ma onesto, Mi ha detto: ragazzi, a me non mi interessa di questa carta, mi sposo io. E così ci ha sposati. Ma noi in chiesa, in canonica, tutto di nascosto come i clandestini. In tutta questa faccenda e nei primi anni di questo matrimonio, quella che ha avuto davvero coraggio è stata mia moglie. È per lei che mi dispiace che non abbiamo neanche una foto del nostro matrimonio. Se sta una volta un rivolo di acqua, se sta una volta ed adesso non so più. Ma me se resta memoria de sbrissar sopra di ti per po' scoprir che così poco sei di me. So sta una volta una coppia de sariese, se sta una volta che ero uno e ero due, e me teniva insieme niente, ma quel niente era importante, perché quel niente è tutto quel che so. Da una volta un colpo sopra i tetti, io ero lassù e altri lassù, sopra con me, sopra di noi solo le stelle e qualche volta quattro iozze, ma stando insieme era bel anche così. Sta una volta come che sono adesso, no proprio stesso né come te mega sognare. Partire in viaggio ogni mattina che io in persona se terra nuova, e tra un buongiorno la me scusi andare a cercare. Regolamento, paragrafo 127. Il lamentarsi del vitto del seminario sarebbe prova di poca educazione e di mancanza di spirito di mortificazione, molto più se i lamenti provenissero da chi è beneficato e povero di famiglia. Il vitto si ripete uguale ogni settimana. Solo i ragazzi di origine benestante, potendo pagare, godevano del vitto speciale. La colazione era a base di caffè latte, pane duro e bromuro. L'uso del bromuro è stato ammesso molti anni dopo da un ex dirigente del seminario di Udine. «Ordini da Roma», disse. «Si mangia in silenzio. Solo la domenica è consentito conversare». In seminario ci sono anche tempi dedicati al gioco. I giochi sono palla avvelenata, bandiera, biglie, corsa, calcio. Il prefetto è tenuto a segnalare chi gioca di malavoglia e chi nel gioco mette troppo entusiasmo. Durante la ricreazione le classi devono rimanere separate. Dopo il pranzo c'è anche la passeggiata, si cammina in fila per due, ma non si può né correre, né fermarsi, né ridere, né curiosare, né fare scherzi, parlare sì, ma solo con quel compagno vicino assegnato dal prefetto. Mentre si cammina non si devono mai mettere le mani in tasca, le tasche sono troppo vicine alle parti intime. Il seminario minore spesso era in un paese di campagna, a volte le passeggiate finivano in un bel campo a giocare a nascondino. Il seminario maggiore, invece, è in città. In città si cammina sui marciapiedi, proibito guardare la gente negli occhi, proibitissimo guardare l'altro elemento. L'altro elemento sono le donne. In seminario le donne non si vedono, perché non ci sono. Ci sono le suore, ma stanno isolate nelle loro zone e in cucina. Le suore si occupano a volte del cambio della biancheria e per ritirarla il piccolo seminarista usa la ruota che consente di far passare la roba senza vedere il proprio interlocutore. La suora dice: «Chi sei e cosa vuoi?» Il seminarista risponde: 212, una federa e un asciugamani. La mia infanzia è stata bellissima, gente, bellissima. Non ho mai avuto morbosità perché ero abituato a vedere le mie sorelle che giravano in mutande e mia mamma, quando ho avuto le prime polluzioni notturne, mi ha detto: Nani, stai sereno, stai tranquillo, che quello che fa il Signore è tutto buono. Teologa pura mia mamma. E poi mi hanno mandato in quel posto orribile. E sai perché mi hanno mandato in quel posto orribile? Perché ero buono. Lo dico sempre ai miei amici bambini: attenti a essere troppo buoni, che non sai mai quello che ti può capitare. Allora mi ricordo, siamo arrivati in questo grande stanzone, no? Pieno di gente, poi arriva il rettore con la veste, coi filetti, e già lì ti viene la paura. Mio papà muto come sempre, mia mamma mi dice: Nani, se cambi idea scrivimi una lettera che vengo subito a prenderti. E io quella lettera l'ho scritta centinaia di volte, ma solo col pensiero, perché non volevo dare fastidi a casa, creare problemi a mia mamma. E poi ero arrabbiato con mia mamma, perché non veniva mai a trovarmi. Cioè, erano 35 chilometri da fare in bicicletta, poverina, e poi aveva anche altri bambini, Ma io non capivo queste cose. Cosa capiscono i bambini? Capiscono niente i bambini! I bambini stanno lì e aspettano! Questa è la fede dei bambini. Aspettare. La domenica era il giorno delle visite. Mi sentivo il bambino più solo, più abbandonato del mondo. Veniva un conoscente a portarmi la biancheria pulita e io gli davo la sacca con la roba da lavare. Quante volte avrei voluto essere un calzino per ficcarmi dentro quella borsa e tornare a casa da mia mamma anche solo un giorno. Eccolo qua, il delitto, il grande delitto. Avere convinto queste donne, queste famiglie, che per un bambino l'amore della mamma valeva meno dell'amore di un Dio astratto. Boom. Di cosa parliamo questa sera? Di seminari? I seminari, volete sapere, i seminari prima del 1500 non esistevano, eh? Li hanno inventati col Concilio di Trento. Avete studiato un po' di storia qua? Vi ricordate qualcosa? State già dormendo? È presto, eh? Rispondetemi, perché se no non vado avanti io stasera, eh? Allora, il Concilio di Trento, 1500, l'hanno fatto per arginare il libero arbitrio della riforma protestante, e infatti hanno fatto la cosiddetta controriforma, senza avere capito niente della riforma, ma non importa. E siccome l'impero d'Asburgo era cattolico, allora Austria, Baviera, Trentino, Veneto, Friuli, quelle sono state le terre, le prime terre d'esperimento di questa potente controriforma, stretta alleanza tra Stato e Chiesa per ottenere il controllo assoluto dei sudditi dalla nascita alla morte. Primi seminari: San Carlo a Milano, San Gregorio Barberigo a Padova. E guarda che Padova è stato un grande seminario, ottima struttura educativa che ha generato una leadership di controllo che fa funzionare l'apparato statale ed ecclesiastico. Mi seguite o sto andando da solo? Notai, medici, avvocati, contabili, questa gente qua, insomma, no? E infatti Padova, città fascista e clericale, ha sempre generato una leadership mai carismatica, sempre ordinata. Ecco perché i veneti non hanno generato grandi leader carismatici. Ultimamente poi non ne parliamo. Neanche grandi artisti, se per quello, diciamolo. Gli ultimi grandi artisti sono stati quelli della Repubblica di Venezia, la prima repubblica laica d'Europa. Perché l'artista cosa fa? Signora, cosa fa l'artista? Cosa fa? Cosa fa? Ma è una domanda semplice, dammi una risposta semplice. Canta, scrive, balla, disegna, cosa fa? Recita, ecco per esempio, una roba a caso, eh. L'artista fa cose senza senso, delira come i matti, come i profeti. E delirare in latino significa andar fuori dal solco. Ma i veneti e quella gente lì non poteva più andare fuori dal solco. Lavorare, basta, giù la testa e lavorare. Lavoro, lavoro, lavoro. Il lavoro come un valore. E così ci hanno fregato tutti. Perché il lavoro non è un valore, è un fattore. Il valore è la felicità della persona umana. Mi è piaciuta questa, eh? Allora, dove eravamo rimasti? Che mi perdo, vedi? Mi deliro, anch'io mi perdo. Allora, ai seminari. Boh, allora, dopo il Concilio di Trento, i seminari hanno cominciato a sparare fuori questi preti in tutti gli angoletti, no? In tutti i paesini, dappertutto. E loro tenevano d'occhio la gente, la istruivano, ecco. E se un prete non faceva bene il suo mestiere, arrivava l'Inquisizione, gli staccava la testa. Poi è arrivato l'Illuminismo e la Chiesa se l'è presa anche con l'Illuminismo. Guarda che il Papa che è stato più feroce contro l'Illuminismo è stato un Papa veneto, eh. Veneti sono stati anche santi, tanti santi, tanti fondatori di ordini religiosi, veneti e lombardi, Lombardia orientale, perché quella occidentale era sotto i Savoia, no? Tutta un'altra parrocchia quella, eh? Liberali, massoni, di qua invece gli Asburgo, cattolici, reprimendi, qua tutto in mani preti. Tutto che poi nel 45 dopo la guerra, quando è arrivato il Partito Comunista, ha detto: visto la grave povertà della massa rurale, qui facciamo la rivoluzione. E tutti giù a ridere. Ma non aveva capito che lì c'era una rete fissa, stretta, di controllo. Lì non c'è mai stata la classe operaia. Neanche la lotta di liberazione delle donne, se è per questo, eh. Lì, se passava una femminista, i preti gli fermavano lo sviluppo da piccola, eh. E pensare che la vera protagonista del Novecento non è mica stata la classe operaia, eh? È stata la donna che con la sua conquista dei diritti di cittadina e di persona ha cambiato l'antropologia familiare, la vita vera delle persone. E questo, care le mie signore qua davanti, la Chiesa non ve lo perdona e non ve lo perdonerà mai, mai e mai. Ho perso il filo. Boh. Comunque, il seminario che abbiamo fatto noi negli anni 50 e 60 non era tanto diverso dal seminario che era nel 700. Se vai a vedere, il regolamento è lo stesso, una struttura chiusa, rigida, gerarchica, che non ti può amare per quello che sei, ma per quello che rinunci ad essere, capisci la follia? Come una scuola militare, come una caserma, credere, ubbidire, combattere. Solo che per i preti tu devi diventare una specie di eunuco assessuato. Per i militari invece l'opposto. Sempre un macho! Che poi è la stessa cosa. Tutto, vedi, si inventano di tutto pur di non dire che anche tu hai bisogno di essere amato. Vi sembra un prete? Grazie. Ci tengo a non sembrare un prete, soprattutto quelli tradizionalisti, lì tutti neri, ah, mamma mia. Ma quando passi vicino a uno di quei preti lì neri, ma non senti come quella botta di aria fredda, come quando apri la porta della cantina? Non ci tengo io a fare questo effetto, eh. Ecco, E poi questi qua poverini non possono toccare nessuno. L'hanno imparato in seminario. C'era la regola del tridente: non toccare, non toccarsi, non farsi toccare. E io invece vi toccherei tutti, vi toccherei, vi abbraccerei tutti quanti, soprattutto le signore qua simpatiche. Ma a me è stato il Sud America a liberarmi. Mi ci sono voluti 40 anni, porca vacca. Che è un modo di dire, perché la vacca è un grande animale. Ma dico, ma voi vi fidereste di uno che non tocca la gente? E invece sì che vi fidate. Letterale, io negli anni 80 ho cambiato città. Non ho detto a nessuno che ero un prete, perché non volevo che si sapesse che non sembravo, non volevo che si sapesse. In 3 mesi non ho trovato neanche uno sgabuzzino. Mi sono arreso. Ho detto che ero un prete. In un giorno 3 case. Sì che vi fidate. Falsi, falsi. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, alla caserma. Allora, questa del seminario e la caserma la spiego, perché sennò sembro un matto e basta. Ecco. Allora, la caserma e il seminario hanno 2 cose in comune fondamentali. La prima è che sono tutte e due una pura invenzione della mente maschile. Gli uomini sono tutti lì che pensano, ma non l'ho mica fatta io. Secondo, si fondano sulla più cieca e assoluta obbedienza alla gerarchia. È più stupida la regola da obbedire, più importante l'obbedienza, perché è così che tiri fuori il perfetto funzionario. Guarda, io avrò avuto 20 anni, si esce fuori in passeggiata, guido io la fila, non avevo l'orologio, rientro con 8 minuti di anticipo, mi ferma subito il prefetto e mi manda dal vicerettore. Il vicerettore mi guarda e mi dice: il tuo solito spirito di insubordinazione e di indisciplina! Via subito dal rettore, perché a quel punto non era che io avevo fatto l'anticipo o il ritardo, era che volevo far questione. E il rettore mi dice: tu vuoi fare il paladino? Io ai paladini taglio la testa! Ma lo capite che a 17 anni io avevo l'ulcera, mi hanno mandato all'ospedale! Perché come fai a tenerla dentro, quell'ingiustizia lì, quella rabbia lì? Che poi io dico, non c'è niente di meno cristiano della gerarchia, perché il cristianesimo è meraviglioso. Cos'è venuto a dirci? Che un uomo, una donna è una donna, no, un presidente, un direttore, un rettore. Mi dispiace per voi, ma i titoli non valgono. Allora tu non sei un rettore, tu fai il rettore, e magari lo fai bene, sei bravissimo, ma prima di tutto sei un uomo. Ci mandano tutta la mia classe a cantare al funerale di una contessa benefattrice del seminario. Va bene? Bella gita. Qualche tempo dopo muore la povera mamma di un nostro compagno e noi chiediamo il permesso di poter andare al funerale in 4 di noi in rappresentanza di tutta la classe. Ci hanno detto di no. La contessa benefattrice, sì, la mamma del mio compagno, no. Ma lo capite cosa ci insegnavano in quella gabbia di matti? E poi c'è un'altra cosa che se ci penso mi verrà un infarto. Vado fuori di testa. Quando eravamo al seminario minore, da piccoli, eravamo bambini, ci insegnavano il valore della solitudine, il dialogo solitario con Dio. Allora tu vai a fare la tua comunione, poi torni al tuo posto, parli col tuo Dio e salvi la tua anima. Ma che senso ha? Che se il Signore è buono, è grande e ci vuole bene a tutti, che un bambino, perché sei un bambino, abbia il suo Dio personale. Ma lo capite perché tanti cattolici non hanno il senso della giustizia per tutti, ma solo per se stessi? L'hanno imparato! Questi si salvano da soli! Vi sembro un prete? Eppure sono un prete. Solo che io non mi sono fatto prete per essere un prete. Io mi sono fatto prete per amare tutti. Tutti. A me non mi è mai mancata una compagna. A me quello che mi è mancato e di cui li accuso, perché non glielo perdono, è stato di avermi sottratto il rapporto con le donne, con la mente e col cuore delle donne. Ma possibile che non ci potesse essere una suora che ci facesse esercizi spirituali? Una donna che insegnasse storia, latino, una teologa femmina? No, mai che una donna potesse insegnarci qualcosa a noi. È tutto perché? Perché noi dovevamo rinunciare alle donne, allora le donne non valgono niente. È come la sessualità. Noi dobbiamo rinunciare alla sessualità. Noi, allora la sessualità è una schifezza. Bel ragionamento. Ero un ragazzino, no? Un giorno in confessione, confesso che mi sono masturbato. Poteva capitare. Una volta al mese, due, no, dovevi mettere in dubbio la vocazione, ma uno passava. È vero. Allora mi confesso e il confessore dice: ma pensi agli uomini o alle donne? Io non sapevo neanche che ci fosse l'alternativa, Dico alle donne? Male. Almeno avessi pensato agli uomini. Come dire che tutto è male, tutto è schifo, ma il peggio di questo schifo sono le donne. Lezione di morale nera, ultimo anno di teologia. Entra l'insegnante e srotola un cartello con la figura di una donna disegnata, stilizzata e divisa a pezzi, come le manze dal macellaio. Poi prende un bastone, indica le parti del corpo di questa donna e ci dice quali parti del corpo sono lecite, meno lecite, illecite. Ma questa è una mentalità perversa! Che genera perversi! A me quando vengono in confessione a confessarmi peccati di sesso li mando via, non mi frega più niente, li mando via, mi nervosisco, non ne voglio più sentire queste storie, gli dico ma va là, gli dico tu non ti devi confessare peccati di sesso, tu casomai ti devi confessare di non avere amato, hai amato? No, pentiti! Allora lo capite, noi che siamo diventati ventenni dentro un seminario, ma per noi a quei tempi le donne, le ragazze, ma non erano neanche degli esseri umani? Erano degli animali mitologici. Vi racconto questa, poi vado via. Era estate, eravamo in vacanza in questa casa in montagna del seminario, no? In un paese sempre vuoto. Sai che divertimento. Eravamo lì, nello studio, con le finestre aperte perché era caldo. Eravamo soli, non c'era neanche il prefetto. E c'era un silenzio che sentivi girare le pagine. All'improvviso, in questa pace, parte una musica bellissima, una canzone dei nostri tempi, di Domenico Modugno. Ciao, ciao. Ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Allora io mi alzo subito dal mio posto, figurati se stavo fermo, e vado a vedere cosa c'è fuori dalla finestra. E cosa vedo? Che in quella casa, al di là della strada, che era sempre chiusa, era tutto aperto, spalancato, e sulla terrazza c'era una ragazza che prendeva il sole sulla sdraio col vestito a fiori e gli occhi chiusi. Lì! Sono alzati tutti i miei compagni, sono venuti a vedere. e sono rimasti anche loro muti, incantesimati, a guardare l'animale mitologico. Ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare Poi è arrivato anche il prefetto. Sì. È rimasto anche lui muto, incantesimato, anche lui. Poi si è svegliato, ha fatto chiudere le finestre, gli scuri, ha fatto accendere la luce elettrica e siamo rimasti lì come degli imbecilli, col caldo, al buio, a studiare, con questa musica fuori che ripartiva in continuazione. Il problema non è mica il divieto, eh. No. Il problema è la sublimazione. È che a noi ci hanno fatto credere che eravamo speciali, che eravamo fatti per qualcosa di più grande, che il presbiterio era il posto degli eroi. E gli eroi non si sporcano le scarpe con queste cose. Allora non fai una scelta lì dentro. La scelta la fai dopo, se sei fortunato. Perché fuori nel mondo ti può capitare, anche se non lo vuoi, di incontrare una persona speciale. E a quel punto la tua scelta ha un nome e ha un volto. Signora, come ti chiami? Paola. Ore 18, rosario e lettura spirituale, poi ancora studio, ore 20, cena, ore 20 e 20, ricreazione in aula, ore 21, orazioni della sera ed esame di coscienza. Una delle domande dell'esame di coscienza è: se io morissi stanotte, morirei con l'anima pulita? Morirei contento? Variazioni sul quotidiano. Il regolamento prescrive che un giorno al mese, una settimana all'anno, sia dedicata a esercizi spirituali. Uno dei ritiri spirituali era detto della buona morte. La santità ha due strade obbligate, l'obbedienza e la purezza. La purezza è la castità, il sesto comandamento, detta anche la bella virtù, in mancanza della quale si cade nel peccato impuro, nel peccato brutto. I peccati impuri sono i più gravi, i più grandi, i più pericolosi, i più facili da fare e i più difficili da confessare. Dal primo giorno di seminario ogni chierico intraprende la sua personale quotidiana battaglia alla conquista della bella virtù. Campo di battaglia è il corpo. Del corpo il nemico numero uno è l'occhio. Guardare ma non fissare. Nemico numero due, la familiarità. Trattare tutti indifferentemente. Nemico numero tre, il vizio solitario, figlio del demonio meridiano, che ti placca nelle ore più fiacche della giornata e magari in combutta col demonio muto. Il demonio muto ti aspetta nel confessionale e ti tappa la bocca. Così al peccato impuro, che è peccato mortale, si aggiunge il sacrilegio. Poi esiste anche il demonio notturno. Il demonio notturno è un po' meno assatanato degli altri, perché riesce ad agguantarti anche mentre dormi, senza il tuo pieno e deliberato consenso, questione fondamentale per evitare la condanna eterna del peccato mortale. Il concetto è che durante l'erezione notturna bisogna riuscire a non svegliarsi del tutto. È un'acqua chiara, pa, che ci guardo attraverso. Sirene che annunciano navi, ma e lasciano scie nel sonno. Gente ruvida ed aspra, pa, che non invita a sorridere. Ed eccezioni sporadiche, ma che conservano il dono. Perdono, perdono, perdonami, Dio del mare. non occorreva allontanarsi tanto, non lo dovevo far. Esiste un paese che è simile al mio, il mare lo risucchia ma e la roccia lo difende. Qualcosa gli fu tolto qua per le loro facce stanche, forse per il troppo avuto, ma che sanno pregare. E prego, prego, prego il Dio del cielo. Non occorreva tanto vento alla mia vela per rimanere così solo. Ora scalciano i cani pa e non carezzano i gatti. Tutti sanno vivere soli, ma animali e padroni amano ed odiano pa con lo stesso sorriso, ma vivono incerti, ma con un conto in sospeso. Via da me, stai lontano, signore del mondo. Sei la spina ficcata nel fianco, sebbene sia un angelo vestito di bianco. Perdono, perdono, perdonami, Dio della luce. Non conosco più la strada, ma so farmi il segno della croce. Avevo 10 anni, ma ne dimostravo di meno. Pesavo sino a 30 chili. Mia mamma mi chiedeva se ero contento di andare al collegio dei preti, io dicevo di sì. Poi quando lei è partita ho pianto ininterrottamente per 2 mesi. L'anno successivo sono entrato al seminario del mio paese. In quel posto il vicerettore faceva cose coi ragazzini. Non lo sapeva nessuno, solo i ragazzini. Io avevo il terrore di quell'uomo. A Natale ci faceva fare una recita allegorica, io dovevo sempre fare l'anno nuovo perché ero un bel bambino biondo, e lui con la scusa di cambiarmi l'abito mi portava nel suo studio e chiudeva la porta. Me l'aveva già fatto una volta questo bello scherzo, così l'anno successivo ho chiesto il permesso di poter tornare a casa per le vacanze di Natale. Abitavo a 2 passi dal seminario. Non mi fu concesso. Bisogna rinunciare alla famiglia. La famiglia conta meno del seminario. Quando uscivamo in passeggiata, passavamo sempre davanti alla mia casa. La mia mamma usciva per salutarmi, ma io non mi fermavo. Quell'estate, per il gran caldo, in casa l'ho vista mezza nuda mia mamma, e poi sono andato a confessarmi. Non la potevo più guardare. Non la potevo più toccare. A 12 anni ho cominciato ad avere problemi di stomaco e allora mi ero fatto l'idea che per digerire meglio dovevo correre. Così io per anni e anni, ogni volta che ho mangiato, poi ho corso da solo in giro come una mosca impazzita. Dopo il ginnasio ci hanno trasferito a Bologna. A Bologna io mi impegnavo molto nello studio, ma non avevo risultati perché non mi funzionava la memoria. Mi piacevano i ritiri spirituali perché in quei giorni son tutti zitti. È un mondo di muti ed è il mondo giusto per me. A 18 anni ero una specie di caso umano. Mi chiamavano la larva. Mi hanno anche mandato da uno psicologo, ma era un uomo molto anziano, disse che avrei ritrovato la salute se avessi rispettato i miei doveri. Quell'anno mi sono innamorato. di un mio compagno. Lui non se n'è mai accorto, nessuno se n'è mai accorto, ma io tremavo se mi passava vicino, se sentivo il suono della sua voce che cantava benissimo il gregoriano. Era buono con tutti, anche con me che ero così imbranato. E di questo sentimento così sincero, così profondo, io non ho mai parlato con nessuno, neanche col padre spirituale, perché era come se la cosa non avvenisse a me, ma a un'altra persona, che non ero io. Poi, durante l'estate, non l'ho più visto e mi è passata. Non mi è mai più successo di innamorarmi nella mia vita di un uomo, poi. In prima teologia ero sempre molto stanco, allora ho chiesto il permesso di poter riposare il pomeriggio in infermeria, mi fu concesso. Ma il padre spirituale poi mi chiese se davvero dormivo, io dissi di no, e lui mi sgridò, perché significava dare spazio al demone pomeridiano, lo spirito impuro della fornicazione solitaria. Il rettore invece, lui aveva un'altra mentalità, molto più aperta. Con lui si poteva parlare, ci faceva leggere i giornali e poi organizzava il cineforum 2 volte al mese. Io a Bologna ho visto i film più belli della cinematografia mondiale, in seminario, Il posto delle fragole di Ingmar Bergman, La vita è meravigliosa di Frank Capra. Imparavo a memoria i nomi dei registi, degli attori. Che il cinema è sempre stato la mia grande passione. Infatti, il film più bello della mia vita è stato il primo, Tarzan e i cacciatori bianchi, con Johnny Weissmuller, primo uomo al mondo a nuotare 100 metri stile libero in meno di un minuto. In seconda teologia mi ha mandato a fare il prefetto dei ragazzi più piccoli. E così sono tornato al seminario minore dove ero stato io. È stato lì che ho conosciuto Giovanni. Giovanni era un po' più grande di me, era il mio supervisore, è stata la prima persona umana a cui ho confidato i miei scrupoli, i miei pensieri. C'era una panca fuori dalla camerata dei ragazzi e noi stavamo lì seduti per ore al buio a parlare sottovoce. Un giorno Giovanni mi ha detto che non c'era niente di male a sognare le ragazze, a patto di sognarle belle. E poi mi ha detto che per forza, che la masturbazione è un divieto, perché è un piacere. Se fosse un dolore ce la farebbero fare tutti i venerdì per penitenza. Quell'estate sono andato a trovarlo a casa sua in campagna e lì ho conosciuto la Marta, sua sorella. La Marta era molto bella, ma negli occhi aveva qualcosa che io ho riconosciuto, e infatti poi ho saputo la verità. Anche lei era stata rovinata da una religiosità malata, aveva paura di tutto, dei suoi pensieri, degli uomini e anche del fatto di essere bella. Qualche mese dopo Giovanni si è ordinato sacerdote e io sono voluto andare alla cerimonia. Sono andato da solo, anche se stavo molto male. Forse sono andato per rivedere la Marta, per non farmi prete, forse. Ma è stato solo un disastro, non riuscivo neanche a parlare. Durante l'autunno il mio stato di salute è peggiorato. Non dormivo, non mangiavo, non riuscivo neanche a studiare. Il 22 novembre 1965, giorno di Santa Cecilia, Giovanni è venuto a prendermi con la sua macchina e mi ha portato alla clinica psichiatrica di Monticelli Terme. Lungo la strada ci siamo fermati e Giovanni ha detto la messa. La clinica era molto moderna e aveva un campanello che suonava come un carillon. Quando Giovanni è ripartito, nevicava. Sono rimasto 4 mesi, mi hanno fatto il coma insulinico, mi hanno detto che durante le ore del coma io urlavo, non mi ricordo. Mi ricordo soltanto che ogni risveglio era come lottare tra la vita e la morte. Poi mi ricordo che ho fatto amicizia con altri pazienti, mi ricordo che facevo belle passeggiate in campagna, in abiti civili, tanto la talare mi aspettava ripiegata nell'armadietto. Dopo questa clinica non sono più tornato in seminario perché come ci mettevo piede riprendevano tutti questi malesseri, allora mi hanno mandato a casa. Studiavo e andavo in seminario solo a fare gli esami. A casa facevo vita molto ritirata perché non avevo amici. Casa, chiesa. Ogni tanto andavo al cinema, all'oratorio. Ma anche nei film più casti arriva sempre il momento della tenerezza, del bacio. E a me, nell'attesa di questa scena, mi saliva un malessere che poi dovevo uscire dal cinema. Nel 67 è successa una cosa molto importante per la mia esistenza, perché Giovanni ha organizzato un campo estivo per i ragazzi e mi ha invitato e io sono andato. E a questo campo estivo c'era anche la Marta. E un giorno io, la Marta e un nostro amico siamo saliti sull'Antermoia, che è una cima delle Dolomiti, solo che durante la salita abbiamo trovato ghiaccio e non riuscivamo più né a salire né a scendere. Ci siamo spaventati a morte. E ci ha salvato un alpinista esperto che è passato di lì, ci ha portato su fino in cima e poi ci ha fatto scendere dall'altra parte per una discesa piena di pericoli. Così alla fine siamo stati costretti a dormire in un rifugio. E io e la Marta, per superare tutta questa paura, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo vicino i lettini e ci siamo addormentati tenendoci la mano. Come gli sposi. Credo. Nel 68 mi sono ordinato sacerdote. Poi subito, per fortuna, mi hanno mandato a fare il cappellano in una grande parrocchia dove Giovanni era parroco. E lì sono stati anni molto belli, di attività intensa con la comunità. La nostra chiesa era sempre piena di gente. Io, vicino a Giovanni e in mezzo alla gente del paese, piano piano ho ritrovato la salute. Perché secondo me, ma sono le persone che ci guariscono. Ogni tanto veniva a trovarci la Marta e un giorno, durante un matrimonio di un nostro amico, le ho detto: te, non ti sposi? Mi ha fulminato con gli occhi. Che domanda cretina. Nel 73 ho fatto una scelta molto forte. Ho rinunciato allo stipendio del clero e sono andato a lavorare perché volevo essere come gli altri. Ho fatto il muratore, l'elettricista. Spesso nelle aziende non sapevano che ero un sacerdote. E una volta mi è successo che un collega ha visto passare un prete e mi ha detto: io quelli lì li manderei tutti a lavorare. Ho anche fatto attività sindacale, che col mio carattere è stata una bella avventura. Studiavo molto la storia della lotta di classe e ne parlavo sempre. E una volta mi sono fatto prendere dall'entusiasmo in parrocchia. Ho detto che la lotta di classe era fondamento della mia esistenza. Si sono messi a ridere e mi hanno detto che ero un po' in contraddizione con la mia scelta di fede. Gli ho dato ragione, ma avevano torto. Dopo 10 anni di questa vita, anche bella, sono andato a vivere da solo, a Bologna, perché mi sono iscritto all'università, a filosofia. A Bologna lavoravo, studiavo, e sabato e la domenica andavo sempre in parrocchia ad aiutare. A Bologna ho imparato a cucinare, che i preti non cucinano mai, che c'è sempre qualcuno che cucina per loro. E poi c'era la Marta a Bologna. Ogni tanto ci vedevamo, andavamo al cinema. Io diventavo anche geloso delle sue amicizie. a lei mi diceva: stai zitto te, che ti innamori di tutte le donne che incontri. Non era mica vero. Però io le donne le stimo. Quando poi la Marta è partita per l'Africa, mi sono sentito molto solo, perché noi non avevamo bisogno di parlare tanto, ci capivamo, perché dentro avevamo gli stessi scrupoli, gli stessi nodi. Ma non si sciolgono due nodi stringendoli insieme. Così lei è partita. Tutti gli anni che sono seguiti, io praticamente ho detto messa solo quando qualcuno mi chiama per una sostituzione o per una cerimonia speciale. A volte confesso, ma preferirei anche non farlo. Il prete dove vivo adesso, il parroco, dice che io non sono un tipo raccomandabile. Anche le signore della chiesa, così ogni tanto mi guardano un po' strano. Un giorno una mi ha chiesto se voglio ancora bene a Gesù. L'ho rassicurata. Sì che voglio bene a Gesù. E un giorno l'ho incontrata per strada e l'ho salutata. Ho detto: buongiorno signora. E lei mi ha risposto: sia lodato Gesù Cristo. Da quando sono in pensione lavoro ben più di prima, per tante associazioni, mi do un bel da fare e vado anche in Africa due volte all'anno. Poi mi piace fare una cosa, che incontro un gruppo di uomini che si stanno ricostruendo la vita e porto sempre una riflessione, una lettura e spesso porto anche un pezzo di film. Qualcuno mi chiede magari anche di pregare, allora prego, se no no. Poi prendo la macchina e guido nella notte fino a casa, mi piace moltissimo. A fianco alla mia casa c'è un cagnetto legato alla catena e io tutti i giorni lo slego, tutti i giorni, e lui mi porta per un quarto d'ora in mezzo ai campi. Tutti i giorni vado a comprare il pane e il giornale. Saluto tutti quelli che incontro. Saluto tutti. Spesso incontro questa ragazza che si chiama Alessia, che porta a spasso la sua bambina sul passeggino. E questa Alessia assomiglia molto alla Marta quando era giovane. Penso alla Marta. E mi manca. Oggi il cielo è attraversato da nubi. Al mio paese, quando non piove, sventa. Tre farfalle bianche nel campo questa mattina, ma poche le api che han già succhiato i fiori di marzo. La Marta è morta un giorno di marzo. Non ha voluto l'estrema unzione. Ha voluto che le tenessi la mano. Nella mia cameretta adesso è entrato un moscone. Vuole uscire, poverino. Apro la finestra. Anche io esco dalla porta. Oggi cucino pesce alla piastra e un po' di riso.